Che bello stare alla sua presenza. E quello che vogliamo fare anche oggi è attingere dalla sua parola. Amen. Dipendiamo dalla sua parola. Allora, datemi qualche minuto che apro i miei appunti. E devo aprire gli appunti giusti, se no do un messaggio diverso da quello che avevo in mente di dare. Cioè, qui ho diversi messaggi, ora che ci penso, a mia disposizione. C'è un arsenale in questo iPad. Però io credo che la parola giusta per oggi sia un'immagine che il Signore mi ha dato martedì. E vorrei proprio partire con questo. Eravamo in preghiera martedì, non lo so quanti lo sanno, però ogni martedì mattina chi lavora a tempo pieno per la Chiesa si ferma in un tempo di preghiera. E leggiamo il pasto del giorno, preghiamo insieme, preghiamo per tutti voi, preghiamo per ogni situazione che conosciamo, preghiamo per noi, per guida da parte dello Spirito Santo, per le scelte e le attività che portiamo avanti. E in quell'occasione, martedì scorso, il Signore mi ha dato un'immagine. E non è bellissimo quando sei in preghiera e senti che il Signore in quel momento ti vuole ispirare attraverso un'immagine o una parola? Credo che Dio lo faccia nei confronti di tutti noi in una maniera diversa anche, non tutti i giorni, ma in alcune situazioni, in alcune occasioni lui parla e si mostra, si manifesta e ci dice qualcosa, ci dà un'indicazione specifica. E martedì scorso mi ha dato questa immagine, l'immagine di una casa stabile in mezzo a tanta rovina. E quindi sono andato poi nei giorni successivi a cercare su Google questa immagine, perché era un'immagine che tornava, e voglio farvi vedere un paio di fotografie che ho trovato, naturalmente di quelle occasioni che conosciamo, gli tsunami che ci sono stati, e queste foto ritraggono proprio la rovina che lo tsunami ha portato e poi qualche casa che rimane in piede. In modo particolare in questo caso si tratta proprio di un intero stabile che a discapito di tutte le altre baracche, di tutte le altre case, è rimasto in piedi. Ce n'è un'altra di foto e qui vediamo qualche casa in più, però ci sono case che sono in parte distrutte, case che non si riconoscono proprio del tutto, e poi c'è questa casa, no, in primo piano, che è quasi intatta, quasi completamente intatta. E questa era l'immagine che il Signore mi dava, e immediatamente questa immagine mi ha riportato a una storia della Bibbia. Qual è la storia della Bibbia che ci riporta questa immagine? Esattamente, la casa sulla roccia. Ed è un brano che conosciamo, abbiamo letto, straletto, riletto, e infatti mi tornava questa immagine durante la settimana. In questi giorni stavo preparando il messaggio di oggi e ho detto: Signore, io non voglio predicare su questa storia, perché la Chiesa conosce questa storia. E più pregavo e più studiavo quello che era il messaggio che in realtà volevo portarvi, che era basato su Isaia 34, che è il capitolo di oggi, e avrei voluto parlarvi del regno di Edom, che cos'è, chi erano gli Edomiti e perché Gesù, Dio, si scaglia con la sua giustizia contro questo popolo e contro le nazioni. Avrei voluto parlarvi degli eserciti delle nazioni e della prospettiva e la panoramica che Dio ha su questo mondo, ma più mi preparavo su questo messaggio che io volevo predicare, più il Signore mi ricordava questa immagine. E almeno Pino è entusiasta del fatto che predicherò su questa immagine. C'è qualcun altro che è entusiasta con lui? La conosciamo, è una storia quasi che non varrebbe neanche la pena di andare a leggere. Però visto che Dio ha parlato e visto che vogliamo che Lui parli e che Lui ispiri, lasciamo allo Spirito Santo fare quello che Lui vuole fare questa mattina. E quindi vogliamo andare a rileggere per l'ennesima volta questo brano. Lo andiamo a leggere in Matteo 7 e poi anche in Luca 6. In Matteo 7 è a conclusione di tutta la narrativa del Sermone sul Monte, e c'è scritto, è Gesù che parla e dice: perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Leggiamolo anche dal Vangelo di Luca. Luca, capitolo 6, versetto 46, ci dimostra che evidentemente Gesù ha raccontato più volte questa storia. Perché questo è qualcosa che ci risulta molto facile apprendere nella lettura dei Vangeli, che più volte Gesù ha raccontato le stesse storie, i Vangeli hanno riportato queste storie con prospettive, parole anche arricchite diverse, oppure sono le stesse storie raccontate in maniera diversa perché sono state ascoltate da più persone e alcuni hanno colto alcuni dettagli e altri dettagli. Per questo voglio leggere con voi i dettagli che Luca ha da proporci, perché dice che Gesù ha detto: perché mi chiamate Signore, Signore, non fate quello che dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi assomiglia. Assomiglia a un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato e scavato profondamente. Questo è un dettaglio proprio di Luca. E ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta un'alluvione, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto smuoverla perché era stata costruita bene. Ma chi ha udito e non ha messo in pratica assomiglia a un uomo che ha costruito una casa sul terreno senza fondamenta. La fiumana l'ha investita e subito è crollata e la rovina di quella casa è stata grande. Io credo che queste storie, forse per alcuni di noi, sono una scoperta meravigliosa. Io spero che per qualcuno che mi sta ascoltando in questo momento, questa sia una scoperta meravigliosa, la scoperta di una verità straordinaria, e cioè che c'è un fondamento, c'è una roccia che rimane stabile nonostante qualsiasi tipo di tempesta. Io spero che oggi qualcuno, ascoltando queste parole, possa riconoscere che non deve più cercare altre rocce, che non deve più cercare altre fondamenta stabili, perché l'unico fondamento stabile per le nostre vite è Cristo Gesù ed è mettere in pratica le sue parole. Io spero che qualcuno, ascoltando queste mie parole, oggi scopri questa verità e cominci a vivere una vita che è finalmente stabile, perché tutti in questa terra stanno cercando stabilità, tutti in questo tempo in modo particolare stanno trovando delle cose alle quali appigliarsi per trovare un certo equilibrio. E lui già ha portato un bellissimo messaggio qualche settimana fa sull'equilibrio, basato sulla grazia di Dio. E io spero che oggi, ascoltando queste parole, tu possa dire: sì, io voglio quell'equilibrio che rende stabile la mia vita, perché la casa di cui Gesù parla non è altro che la nostra vita. Però forse per la maggior parte di noi questa non è una verità, è una scoperta nuova, ma è un ricordo. È un ricordo importante che lo Spirito Santo ci sta affidando oggi. Ricordarci che ciò che conta veramente è Cristo Gesù. Ricordarci che la nostra vita rimane stabile in Lui. Ricordarci quali sono le fondamenta, la cosa più importante, le priorità sulle quali dobbiamo basare la nostra esistenza terrena e basare la nostra speranza per l'eternità. Lo Spirito Santo te lo sta ricordando oggi. Sei nel posto giusto, al momento giusto, per sentire il tuo Padre che oggi ti ricorda: non hai di che temere, perché le tue fondamenta sono basate su una roccia irremovibile e quella roccia sono io. Questo ha fatto per tutta la settimana il Signore con me. E ha detto, sì, forse puoi vedere rovine a destra e a sinistra e vedi tante vite che crollano. Quante vite abbiamo visto noi qui in chiesa? Io sono nato e cresciuto in questa chiesa. Quindi sono 40 anni che sono qui. Lo so che... Lo so. Mi guardate con sorpresa. Sì, ho 40 anni, non li dimostro, ma ho 40 anni. E in 40 anni, stando in questa chiesa, quante vite abbiamo visto? Quante vite abbiamo visto fare delle scelte giuste, fare delle scelte buone, dare il loro cuore, la loro vita a Cristo Gesù? Quante persone abbiamo sentito chiamare Signore Gesù? Quante cantare con noi, come oggi abbiamo cantato, tu sei il Signore, o alzare le mani come noi le abbiamo alzate e dire, sì, io arrendo la mia vita al mio Signore, il Signore è un... Che cos'è Signore? Signore è un appellativo che noi diamo a Gesù perché riconosciamo in Lui l'autorità, è un appellativo che si dà a chi ha autorità, a chi ha potere, a chi viene delegata completamente la propria vita, le proprie scelte. E questo è Cristo Gesù per noi. Ma quante persone abbiamo visto vivere questo per una stagione e poi venir meno e poi crollare? Non è questo il rammarico di ciascuno di noi? Non è questo il motivo per il quale noi ci fermiamo e preghiamo così tante volte? E anche noi il martedì ci fermiamo per pregare per coloro che vediamo vacillare o per chi vediamo che ha una vita devastata, rovinata. Io ho visto coetanei miei, figli di credenti, nascere in chiesa, crescere in chiesa, fare le stesse scelte e poi a un certo punto crollare. Perché? Perché esteticamente e al di fuori possiamo essere tutti molto uguali, tutti mostrare delle case più o meno belle, più o meno grandi, ma Gesù sta dicendo non è che conta poi così tanto quanti piani hai, quanto sono belle le tue finestre, le porte, le mura, il tetto. Ciò che conta, Gesù dice, è dove è basato, dove è fondato quella casa, dove sono piantate le tue fondamenta. E questo Lui ci vuole ricordare oggi. E questo io voglio ricordare a te oggi, facendoti questa domanda. Dove sono le tue fondamenta? Questa storia ci ricorda, fratelli e sorelle, che noi siamo amati. Che tu e io siamo profondamente amati da Dio. Quando Gesù usa questi termini, queste parole, ci sta invitando alla vita piena, alla vita che rimane stabile. Queste sono le parole di un padre che dice al proprio figlio, io voglio il meglio per te, io voglio che tu reggi davanti ad ogni prova, davanti ad ogni circostanza, davanti ad ogni tragedia e distruzione che si può abbattere contro di te. Lo percepite l'amore di Dio in queste parole? Dio cosa vuole per te? Dio cosa vuole per me oggi? Vuole che noi siamo delle case che rimangono ferme, stabili. E tutto può crollare, ogni fiume può venire, ogni vento si può abbattere. E Gesù che cosa desidera per i suoi figli? Che noi rimaniamo stabili. Questa parabola, queste parole, questa storiella che Gesù racconta è perché Lui ci ama. Io voglio ricordarti che Lui ti ama e che l'amore di Dio non è manifestato e dimostrato dal fatto che Lui placa la tempesta, a volte lo fa. Dio non dimostra il suo amore solo quando ferma il vento e ferma l'acqua. Dio lo fa, ma Dio dimostra il suo amore che anche quando l'acqua diventa minacciosa, il vento si abbatte con impeto contro le nostre vite, il suo amore si dimostra in noi perché ci mantiene stabili. Lo capite? Capite dov'è l'amore di Dio? A volte le persone perdono di vista questo amore proprio perché? Perché? Perché dicono dov'è Dio? Perché ha permesso questa tempesta? Perché ha permesso quest'acqua? Perché ha permesso questa minaccia nella mia vita? E ci si perde in quella che è una bugia che sta propinando il diavolo. Gesù ci dice, vedete, io ve lo metto in chiaro, la tempesta verrà e verrà per chi crede e per chi non crede e verrà per chi ama Dio e per chi lo odia. E verrà tanto per chi ha fede in Lui, che Lui è capace di bloccare il vento, di bloccare la tempesta. Questa tempesta verrà comunque anche in chi ha fede che questo si possa fermare. Perché Dio a volte permette le tempeste nella nostra vita. Ma ciò che Gesù promette a ciascuno di noi è che nonostante tutto noi rimarremo stabili. E ciò che mi piace vedere nella nostra Chiesa sono le persone, le tante persone. Le persone che ho davanti a me, forse qualcuna che non vedo perché ci sta seguendo online, e so che ci sono in tanti che rimangono a casa, ma che sono fedeli, fedeli nell'amare la Chiesa, fedeli nell'amare il Signore, fedeli in tutto quello che il Signore gli sta chiedendo di fare in questo tempo. E vedo in voi persone stabili e ferme. E cosa vedo in voi? Vedo il fatto che reggete ad ogni stagione, e in questo dobbiamo tutti riconoscere il profondo amore del Padre. Perché è Lui che ci tiene ancora stabili e fermi, non è vero? È Lui che ci tiene in piedi. E sì, forse vedo anche qualche casa che è un po' ammaccata, che qualche tegola è venuta meno, che c'è qualche raschio, che c'è qualche finestra rotta. Perché le tempeste fanno danni, ma ciò che conta è che vedo uomini, donne, fedeli a quel Dio che ci mantiene sempre stabili. Amen. Vogliamo fare un applauso al nostro Signore e alla stabilità che Lui dà a ciascuno di noi. Alleluia. Gloria a te, Gesù. È tutto per merito Suo. È tutto per merito tuo, Gesù. È tutto per la tua grazia, è tutto per il tuo amore. E tu sei la roccia, tu sei fedele. E grazie per il privilegio che ci dai di poter poggiare la nostra vita su di te e rimanere stabile nonostante le tante tempeste. Amen. Alleluia. Alleluia. Forse sei qui e hai bisogno di preghiera. Forse stai sentendo queste parole e dici: io ho proprio bisogno di ritrovare la mia stabilità in Cristo. Vogliamo pregare un attimo, quindi ci alziamo tutti in piedi, vogliamo dedicare qualche minuto alla preghiera, perché come mettiamo o rimettiamo le nostre fondamenta in Cristo? Con la preghiera. È una delle cose che ha insegnato poco prima di questa storia. Ha detto: se qualcuno cerca, quella persona trova. Se c'è qualcuno che bussa, verrà aperto a chi bussa. E sta parlando della preghiera. Vuoi una vita stabile? Gesù sta dicendo: usa la preghiera. La preghiera è la garanzia per stabilità nella tua vita. E noi come Chiesa amiamo pregare, perché la risposta non è nelle parole del pastore o del nostro fratello o della nostra sorella. La risposta è in Cristo Gesù che interviene. E quindi quando ci riuniamo nei piccoli gruppi, negli appuntamenti che state facendo in videochiamate ora, perché è questo l'unico mezzo, che cosa facciamo? Preghiamo gli uni per gli altri. Non sottovalutare mai la potenza della preghiera, perché è Gesù che dice che attraverso di essa tu rimani stabile e attraverso di essa tu metti le fondamenta sulla roccia. Quindi vogliamo chiudere i nostri occhi e sinceramente, se c'è qui qualcuno che dice: Io avverto che c'è il fiume, io avverto che c'è il vento nella mia vita, io avverto che ci sono delle situazioni che mi stanno facendo tremare e voglio assicurarmi di trovare stabilità e sicurezza in Cristo, allora ti chiedo di alzare le tue mani. Magari riconosci che la tua vita è rovinata e la tua casa è stata battuta da una tempesta passata, una tempesta in corso, e vuoi ricostruire. Ma lo vuoi fare bene oggi, e da oggi lo vuoi fare bene con il Signore, fondando le fondamenta della tua casa su di Lui. Allora chiedo anche a te di alzare le tue mani. Se sei a casa, alza la tua mano, perché non è un gesto che è necessario che io veda, è un gesto che è necessario che tu faccia davanti a Dio, riconoscendo che Lui è ovunque In questo momento Lui è ovunque e vede ciascuno di noi. E noi crediamo nella potenza della preghiera. Noi crediamo che in questo momento, Gesù, Tu vuoi intervenire e vuoi rafforzare la vita dei Tuoi figli, perché questo è il Tuo desiderio, prima che sia il mio che faccio questa preghiera. È il Tuo desiderio stabilire, rendere sicure queste case, queste vite. E io intercedo per ogni fratello, ogni sorella che vedo con le proprie mani alzate, che vuole sicurezza, che vuole stabilità, che vuole vincere la paura della minaccia che si sta battendo contro la propria casa. Nel nome di Gesù e per la potenza che c'è nel Tuo nome, Gesù, noi preghiamo in questo momento che la forza Tua, la forza dello Spirito Santo possa tenere fermi e stabili i Tuoi figli. Nel nome di Gesù lo prego. Davanti ad ogni minaccia, davanti ad ogni situazione, nel nome di Gesù noi troviamo stabilità in Te. Alleluia. Alleluia. Io prego per chi ha una vita che riconosce essere in rovina, una casa che è devastata, demolita. Gesù, Tu ricostruisci ogni rovina. Per Te nulla è impossibile. E Tu vuoi dare un nuovo inizio a queste persone. Io prego per loro in questo momento, affinché nel nome di Gesù queste case si possano rialzare, ricostruire sulle solide fondamenta che sei Tu, Signore Gesù, che sono le Tue parole e i Tuoi insegnamenti. Amen. Amen, alleluia, amen, amen. Abbiamo ancora qualche minuto, quindi possiamo accomodarci e vogliamo vedere insieme le due cose che Gesù dice di fare per avere una vita che è basata sulla roccia. Lui dà due verbi, ascoltare e mettere in pratica. Queste sono le due azioni che Gesù ci invita a vivere per avere una vita che è stabile, sulla roccia. Ascoltare, io non sottovaluto l'ascoltare. Ieri eravamo con una coppia di amici e parlavamo dell'importanza della comunicazione nelle relazioni. Quanto è importante la comunicazione nel matrimonio, è vero? Quanto è importante la comunicazione nella nostra relazione con Dio? Forse oggi dobbiamo ricordarci che il nostro Creatore ci ha creati con due orecchie e una sola bocca, per una ragione specifica, io credo. Così che guardandoci, no, e riconoscendo che tutti abbiamo due orecchie, Dio vuole che noi impariamo ad ascoltare prima ancora che a parlare. La nostra comunicazione con Dio è una comunicazione che va da una parte e dall'altra. Non sei solo tu che chiedi a Lui, non sei solo tu che parli, non sei solo tu che comunichi con Lui, è Lui che comunica con te. E come se lo fa? Lo fa ogni giorno se tu sei disposto ad ascoltare. Ascoltare è fondamentale. E per ascoltare a volte dobbiamo aspettare. Per ascoltare a volte dobbiamo rileggere, parlando della parola di Dio. Tu sai che stai ascoltando Dio veramente quando riesci a percepire il suo cuore dietro le parole che leggi. Un conto è dire: sì, lo so che Gesù ha detto che Lui vuole una vita stabile per me, sulla roccia, e quindi devo ascoltare, devo mettere in pratica. Un altro conto è cogliere il cuore che c'è dietro queste parole. Meditare su queste parole, come mi sono ritrovato a fare io in questa settimana, ascoltare profondamente e chiederti che cosa intendevi dire, qual è il tuo cuore dietro questa istruzione, e poi percepire che c'è tanto amore, che c'è tanto sentimento paterno da parte di Dio nei nostri confronti. Quando noi percepiamo il cuore dietro le parole, allora stiamo ascoltando. E Dio vuole che noi ascoltiamo. Un po' difficile ascoltarlo quando leggi, no, Isaia 34. Però anche lì c'è da ascoltare, non limitarsi a leggere quelle parole che parlano di un Dio giudice, di un Dio giusto, di un Dio che fa vendetta, capire che cosa c'è dietro, qual è il cuore, il sentimento che Dio ha. Gesù ci invita ad ascoltare. E dopo che abbiamo ascoltato, Lui ci invita a mettere in pratica. Sicuramente l'appello che Gesù fa, l'abbiamo letto insieme, dà un particolare accento su questo aspetto, sul mettere in pratica, non ascoltare solamente. Perché? Perché lui ci conosce, Gesù ci conosce molto bene, sa che siamo tendenzialmente tutti molto religiosi, cioè che ascoltiamo, immagazziniamo informazioni e poi meccanicamente anche facciamo, ci muoviamo, ma non c'è un coinvolgimento interiore, profondo, ed è questo quello che Gesù dà ai suoi discepoli, a noi oggi, attraverso il Sermone sul Monte, che è questo lungo discorso che lui fa, che precede questa storiella che abbiamo letto. In questo sermone lui che cosa fa? Lui prende la legge e la ripresenta al suo popolo, andando a scavare su queste indicazioni che Dio ha dato, a scavare per fare in modo che ciascuno di noi non si limita meccanicamente a un'attitudine religiosa esteriore che non riguarda il coinvolgimento interiore del cuore. Ed è per questo che Gesù dice: mettete in pratica queste cose, andando a mettervi in gioco completamente, perché questo è quello che Gesù fa attraverso il Sermone sul Monte. È straordinario quello che lui insegna, perché lui insegna sulla preghiera, come abbiamo detto, ma insegna anche sul perdono, ad esempio. Quindi va a scavare sulle situazioni, dice: non fare solo la bella faccia, la faccia lavata davanti al tuo fratello, davanti alla tua sorella, davanti a quella persona che ti ha fatto un torto, davanti a tuo marito, davanti a tua moglie. No, perdona. E quando lui dice perdona, sta dicendo: lavora da dentro a fuori, porgi l'altra guancia, non solo come un'attitudine meccanica esteriore di una persona religiosa, ma perdona con il cuore quella persona, ama con il cuore il tuo nemico, prega per i tuoi nemici, per coloro che ti perseguitano. Questa è l'assurdità di quello che Gesù sta insegnando nel Sermone sul Monte, e sono tanti gli insegnamenti che lui fa di non fare tesori sulla terra. Dice: no, non fatevi tesori sulla terra, fateveli in cielo. Andando ad analizzare in maniera più approfondita il Sermone sul Monte, il paradosso è che ogni cosa che lui insegna sembra essere proprio l'esatto contrario di un solido fondamento. Sembra che tutto ciò che insegna Gesù nel Sermone sul Monte assomigli molto più a della sabbia che non a una roccia. Qual è la nostra logica sui terreni, sui tesori terreni? Se ho un buon conto in banca, se ho buone finanze, se mi faccio tesori su questa terra, allora la mia vita sarà stabile. E Gesù dice: no, dai i tuoi averi, fai tesori nei cieli, ed è lì che troverai stabilità. La logica umana dice: se io perdono, porgo l'altra guancia, perderò la mia identità e la mia dignità davanti agli altri. E Gesù dice: perdila. E ci sembra che stia proponendo della sabbia, una cosa che mette instabilità in noi piuttosto che stabilità e sicurezza. Sull'ansia dice: cercate prima il regno e la sua giustizia e ogni cosa vi sarà sopraggiunta. No, signore, forse non hai capito, io ho ansia per le cose terrene, io ho ansia per il mio domani, io ho ansia per il mio lavoro, io ho ansia per ciò di cui mi vestirò e ciò che mangerò. E Gesù dice: no, lascia stare, preoccupati di cercare prima il regno e la sua giustizia e ogni cosa ti sarà sopraggiunta. Vi sembra roccia questa? Vi sembra solida roccia sulla quale basare le nostre vite? A me, detto francamente, sembra sabbia. E nella logica umana tutto questo ci viene propinato come sabbia. Ed è per questo che la maggior parte delle persone non fondano la loro vita su Cristo Gesù, perché dicono: è sabbia. Gesù dice: hai un bisogno. sei in un'emergenza. Prega. Mi sembra la roccia questa. Io ho un problema, io lo devo risolvere, io devo trovare qualcuno che me lo può risolvere. Io devo fare quella chiamata, io devo mandare quel messaggio, io devo chiedere l'intervento di quella persona, di quella figura professionale. Gesù dice no. Hai un problema, hai un bisogno? Prega. Nella nostra logica umana tutto questo sembra sabbia, è vero? Però Gesù dice, questa è pura, solida, irremovibile roccia. E sapete perché è pura, solida e irremovibile roccia? Perché è completa fiducia del Creatore e dell'Onnipotente. E chi è più stabile, più sicuro, più forte? E chi può darci la garanzia migliore per questa vita e per l'eternità se non colui che l'ha creata? Ed è questo quello che Gesù sta dicendo. Vuoi vivere veramente? Allora muori. Vuoi essere sicuro totalmente? Allora rinuncia alle tue sicurezze. Vuoi camminare in questa vita avendo la consapevolezza che tutto quello che fai produrrà frutti positivi? Allora muori a te stesso. Gesù arriva a dire, se il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella Geenna tutto il tuo corpo. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, allora tagliala e gettala via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella Geenna tutto il tuo corpo. Che cosa sta dicendo Gesù? Sta dicendo, muori a te stesso. Cava, amputa, taglia, rinuncia. Arriva a non avere più gambe pur di inginocchiarti davanti a me. E allora troverai vera, solida e stabile roccia per la tua vita. Voglio rileggervi quello che è stato un verso che abbiamo letto qualche settimana fa in occasione della Pasqua, che ci ricorda proprio che la vita piena è nella nostra morte. In Romani 8, al versetto 11, dice: se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne. Non sei debitore a questo mondo per seguire quello che tutti gli altri fanno. Non sei debitore ai tuoi pensieri per lasciarti assecondare da essi e stabilire la tua vita su di essi. Perché se vivete secondo la carne, voi morrete. La casa sarà distrutta. L'ultima delle tempeste sarà il giudizio universale. E lì più nessuna casa reggerà se non è basata sulla roccia di Cristo Gesù. Ma, aggiunge questo verso, ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. La domanda è, ti fidi abbastanza di Gesù al punto tale da rinunciare a tutte le tue sicurezze, morire a te stesso e abbracciare unicamente, esclusivamente la vita che Lui ha da offrirti? Ti fidi a questo punto? Perché a questo quello che Gesù ci sta invitando. È questo che Lui sta cercando di stimolare ciascuno di noi ad abbracciare nella propria vita. Sei disposto a fidarti a tal punto del tuo Creatore, di quello che Lui dice, da dire tutto il resto è sabbia, quello che Lui dice è roccia. E quello che Lui dice diventerà la mia vita. La mia condotta di vita. non solo quello che ascolterò, non solo quello che potrò pronunciare con le mie labbra, ma le mie scelte quotidiane. Se la tua risposta oggi è un rinnovato sì, allora trovi stabilità. Se la tua risposta oggi è un rinnovato sì, sì, io ci credo, io... Io muoio a me stesso, io rinuncio a tutto, non voglio seguire la logica che mi ha guidato finora. E qualsiasi cosa è rimasta nella mia cultura, nel mio modo di fare, nel mio vivere il matrimonio, nel mio vivere la mia condotta di vita, che è simile a quello che mi è stato sempre inculcato, insegnato, e quella che è la logica della mia mente, io rinuncio ad essa. Io taglio quel braccio, io cavo quell'occhio, io faccio guerra contro il peccato, perché non sono debitore adesso, voglio la vita piena. E com'è possibile fare questo? L'abbiamo letto, l'abbiamo riletto attraverso lo Spirito Santo. Gesù ci porta a una conclusione unica. Non lo puoi fare tu, non lo puoi fare nelle tue forze, non lo puoi fare nella tua autodisciplina, non lo puoi fare nella tua sola volontà, nelle tue lo fai con lo Spirito Santo. Tu muori e lasci vivere Lui in te. E tu ti alzi la mattina e dici: oggi, Spirito Santo, questa giornata è tua. Chi devo perdonare? Lo perdonerò. A chi devo porgere l'altra guancia? Io non ci riesco, lo sai, Signore, ma io muoio alla mia incapacità e abbraccio la capacità che mi è data per mezzo dello Spirito Santo. I miei averi sono tuoi. Io voglio fare tesori in cielo. Mi fido di te, questa è roccia per me. Ho un problema, vengo a te. Mi fido che ascolti tutte le mie preghiere e so che in questo trovo la mia stabilità. Questa è roccia. Ed è questo quello che noi scegliamo di vivere. Amen. Questa è ciò che ci ha tenuti in piedi finora. È vero, è questo ciò che mi fa vedere delle facce di persone che sono rimaste in piedi davanti a tempeste ben più grandi di quelle che io possa aver mai vissuto o immaginato nella mia vita. Tu sei rimasto stabile nel tuo matrimonio, tu hai scelto di mantenerti fedele, tu hai scelto di condurre una vita che è stata arricchita dalla bellezza del perdono, dalla bellezza di amare i tuoi nemici e pregare per chi ti ha perseguitato, dalla bellezza di investire per il regno. Queste sono le persone che io vedo davanti a me e mi congratulo con te e ti incoraggio, perché tutto questo messaggio oggi è un ricordarti per cosa vivi ed è anche un ricordarti a cosa sei morto. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Alleluia, Padre. Ancora una volta in preghiera veniamo davanti a te per rinnovare la nostra scelta, e so che è la scelta di tutte le persone che ho qui davanti a me. E io ti ringrazio per questo, perché è meraviglioso vivere in questa chiesa con questi fratelli, con queste sorelle che fanno questa scelta e la rinnovano nella loro vita. Grazie, Padre, noi preghiamo una preghiera per il mondo che ci circonda, per le tante case distrutte, per le tante vite che vediamo minacciate. Anche quelle che appaiono tra le più belle, ville con piscina, di più piani, splendenti, ma sappiamo che non hanno la roccia sotto. Sappiamo che un giorno crolleranno. Noi preghiamo per queste vite. Fa che loro possano vedere le tempeste che noi abbiamo superato con te. Fa che loro possano vedere la stabilità che tu rinnovi in noi e che anche loro possano decidere di poggiare la loro casa, la loro vita su di te, Cristo Gesù. Amen. Vogliamo adorarlo, vogliamo stare alla sua presenza e ringraziarlo e fare scelte, rinnovare scelte davanti a Lui.